vaga nel buio, la luce che tranquilla le pareti ti colpisce. Che vaga nel buio, la luce che tranquilla le pareti ti colpisce. Non sono reale, non sono finto, sono solo me stesso. Non sono riflesso di quello che vorrei essere. Non sono reale, non sono finto, sono solo me stesso. Non sono riflesso di quello che vorrei di ombra che vaga nel buio, la luce che raggiunge pareti ti colpisce.